Tu sei una food blogger. Innanzitutto, cosa fa il food blogger e come ti è nata l'idea di diventare una food blogger? In realtà io sono sempre stata molto appassionata di cucina, non ho mai messo online le mie ricette o cose così prima dell'opportunità che mi ha dato Donna Moderna come, e sono diventata food blogger con due cuori e un fornello. Il mio food blog è un po' atipico, ma non lo dico per vantarmi, è atipico perché i food blog sono molto caratterizzati dalle foto in realtà. Io non faccio foto, sì, capita ogni tanto le faccia, ma niente di che, insomma, quando mi vengono bene i piatti. In realtà mi piace raccontare la passione per il cibo, il mangiare, il piacere di dare da mangiare agli altri. E quindi sono più storie legate al cibo. L'essere food blogger secondo me è molto divertente perché poi alla fine l'ispirazione maggiore per le ricette la trovo su altri food blog fondamentalmente. E quindi credo sia un bellissimo modo per avere un grande ricettario a casa senza dover comprare troppi libri. E secondo te il mondo del web è maschilista o c'è spazio anche per un'attività femminile? No, anzi, cioè, il food blogging è molto molto femminile. Non so se è femminista, ma sicuramente molto femminile. E secondo te c'è possibilità che anche in Italia si faccia come in America, cioè che i blogger riescano a mantenersi con l'attività del proprio sito, del proprio blog? Allora, me lo auguro perché faccio parte della categoria, ma nello stesso tempo credo che finché non cambieranno le cose riguardo appunto la divisione tra giornalisti, essere giornalista, essere blogger e soprattutto i giornalisti la considerino come una minaccia l'essere blogger o scrivere dei pezzi su dei siti e non essere giornalisti, sicuramente questo non aiuterà. Ci deve essere un confronto, bisogna capire che appunto sono. Non lo stesso mestiere, assolutamente, perché uno dovrebbe fare le notizie e l'altro magari le commenta oppure crea delle altre forme di comunicazione.